puzzo come un merluzzo e se strabuzzo gli occhi mi sa tanto che sbocco. E non mi lavo se bevo sbavo e sono molto bravo a parlare jugoslavo. Struzzo come uno struzzo, sprizzo con giacicarizzo. Mago se perdo mago e tranne quando cago sono veramente un mago. Striscio se scappa piscio e vado a Mogadiscio a spararmi un ballo liscio. Schiaffo perché sei maffo, calce struzzo sopra l'Abruzzo. Matto sono strafatto, chiamami mente catto se mi piace farmi il gatto. Strippo per la pippo, ma dove sta l'inghippo se la soia me la pippo. Scracchio sull'abbacchio, scoppio se fumo l'oppio.